24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Sono le 8, 17 minuti e 20 secondi, è giovedì 4 giugno e inizia la terza parte di 24 Mattino. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Ciao Maria, e eccoci. Buongiorno, buongiorno Simone e buongiorno ai nostri ascoltatori. E questa mattina, appunto, dando una rapidissima occhiata per quel che si può ai quotidiani europei, mi ha colpito la foto che c'è sulla prima pagina del Guardian e che mostra come anche a Londra, ma è successo anche a Parigi, anche ad Amsterdam, centinaia di giovani stiano manifestando per protestare contro la morte di Floyd, George Floyd, il quarantenne americano che è stato ucciso da un poliziotto, Chauvin. Mi ha colpito perché da tanti anni, forse da quando ci furono gli atti di terrorismo in Europa, non si vedeva una folla europea di giovani, un po' in tutte le città. E mi ha colpito che due presidenti americani ieri, ex presidenti, abbiano preso la parola pubblicamente per mettere in guardia dalla deriva, da quel che sta succedendo. Tra l'altro ha parlato Obama ed è giusto, quasi scontato che lo facesse, essendo stato il primo presidente afroamericano, ma ha parlato anche il repubblicano George Bush, e l'ha fatto insieme a sua moglie Laura Bush, una delle migliori first lady che l'America abbia avuto secondo me, e tra l'altro una donna che si è veramente impegnata per l'Africa. Io mi ricordo, l'ho incontrata, l'ho intervistata a Roma qualche anno fa proprio mentre stava andando in Africa, ed è proprio una concezione della destra repubblicana totalmente diversa, quella che c'era con George Bush, che pure fu un presidente criticatissimo, e quella che vediamo in queste ore. Ma insomma, ne parleremo più avanti. Sì, ne parleremo più avanti. Sì, sarà il tema che affronteremo, come si diceva, alle 8:30. Aspettiamo ovviamente anche le vostre opinioni al 349-238-6666 per i vostri sms, messaggi su WhatsApp, anche WhatsApp audio, e l'800-24-0024 per intervenire in diretta, mentre siamo, ve lo ricordo come sempre, siamo anche in diretta sulla pagina Facebook. Iniziamo però dalle questioni correlate a Covid e alla situazione italiana. Ieri la riapertura dei confini tra le regioni. Ebbene, oggi vogliamo andare in una regione che è insieme una regione turistica ed è anche una regione di confine, che ha il confine con la Francia, e siamo in Liguria col presidente della regione Giovanni Toti. Buongiorno Toti, come sta? Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Sotto la pioggia, sotto, anche qua. Normale, anche qua a Milano, anche qua a Milano. Con allerta meteo, diciamo, per ricominciare la routine. Diciamo che è un po' una sfiga, perché era il momento in cui in Liguria avreste potuto finalmente approfittare dell'arrivo di turisti, quantomeno locali. Le prossime ore tornerà uno splendido sole, se partiamo un filo più lentamente non ci lamentiamo. Avete paura dei milanesi, Toti? No, io ho paura delle code in autostrada, perché abbiamo un sacco di cantieri. Io ho paura che i nostri operatori abbiano tempo di prepararsi ad accogliere il turismo nel migliore dei modi, cosa che stanno facendo. Assolutamente no, non abbiamo paura dei milanesi, anche perché siamo attrezzati a monitorare la situazione. Abbiamo passato queste giornate con la nostra sanità a controllare esattamente tutti i nostri sistemi di tracciamento, a verificare i letti d'ospedale, insomma tutto quell'apparato che serve ad eventuali, come si dice, piccole ricadute, cluster, cosa che talvolta accade, abbiamo imparato a gestire fin da febbraio scorso. Noi siamo stati i primi qua ad avere dei cluster importati da fuori, vi ricorderete gli Alberti da Rasci, insomma abbiamo fatto un grande lavoro, credo che siamo pronti. È un rischio calcolato, mi sembra, leggendo i giornali, cosa che stavo facendo, aspettandovi. Mi pare francamente che il rischio peggiore oggi sia un altro, ed è quello della disoccupazione dell'economia che non riparte. Che cosa pensa, Presidente, delle parole e del progetto? Lui l'ha chiamato il piano di rinascita, chissà se consapevolmente o inconsapevolmente evocando il famoso piano di rinascita di Gelli, quello che fu ampiamente combattuto da Tina Anselmi, ma anche dallo stesso Spadolini. Le chiedevo che cosa ha pensato dei progetti di cui ha parlato ieri il Premier Giuseppe Conte per far ripartire l'Italia. Natella, un nuovo patto sociale non può che partire da una parola, da un verbo, decidere. Se questo paese non comincia a decidere, continua a fare conferenze stampa, credo che non andrà da nessuna parte. L'ho ascoltato con grande attenzione, ho ascoltato gli appelli all'unità, a un nuovo patto sociale del paese, sono tutte bellissime cose in cui mi ritrovo. Dopodiché ci sono opere pubbliche che non stiamo facendo, penso alla mia gronda di Genova, ferma sul tavolo di un ministro, basta la firma. Le concessioni d'autostrada, io sono una regione dove ci sono 3 concessioni autostradali, 2 scadute non rinnovate e una in attesa di sapere se esisterà ancora, se viene revocata. Allora, prima cosa, basta proclami, decidiamo qualche cosa, diamo l'idea agli italiani che sappiamo fare qualcosa, perché un nuovo patto sociale, mentre la cassa in deroga non arriva, i sussidi non arrivano, i prestiti in banca sono le vecchie regole, non vengono date, che credibilità ha verso il paese? Ci torniamo adesso sulle questioni politiche, però vorrei portarla un po' sulle questioni, per così dire, terra a terra, che riguardano l'afflusso dei turisti nella sua regione. Sì, no, anche queste sono terra a terra, certamente, diciamo, più sono molto più importanti gli afflussi dei turisti, perché quelli sono soldi che arrivano nelle tasche dei cittadini e ne abbiamo tanto bisogno. Ascolti, Toti, non avete pensato ad alcun meccanismo di controllo? Voi stamattina abbiamo fatto sentire la voce del presidente pugliese, Emiliano, il quale diceva, sì, bisogna registrarsi e poi vi raccomandiamo di prendere appunti sulle persone che incontrate, con chi parlate, per capire se possono essere eventualmente contagiati. Ma guardi, le linee guida che abbiamo elaborato come conferenza delle regioni, che sono poi quelle con cui sta ripartendo il paese, prevedono già una serie di sistemi di registrazione. Prevede il sistema che viene registrato e vengono tenute le prenotazioni ai ristoranti, gli alberghi da sempre registrano le persone, noi siamo addirittura una delle regioni che sta sperimentando l'app Immuni, appena saranno pronti a partire dall'8 di giugno, quindi esistono già sufficienti tracciamenti. La regione Liguria, che voi conoscete bene, normalmente ha, se torneremo alla normalità, cosa che auspico nel più breve tempo possibile, 5.000, 6.000 camionisti al giorno che raggiungono il nostro sistema portuale, decine di migliaia di passeggeri per i traghetti, quando ripartiranno milioni di passeggeri per le crociere, un numero molto elevato di turisti più tutti coloro che si spostano in uno dei sistemi industriali ancora per fortuna principali del paese. Pensare che nel nostro sistema regione vi possa essere uno sbarramento di frontiera dove registriamo alcune, molte decine di migliaia di persone al giorno, credo che sia pura fantasia, è inutile raccontarlo ai cittadini. Serve un controllo con gli strumenti che abbiamo e la capacità degli uffici di prevenzione di intervenire rapidamente ove si manifesti la malattia in modo da circoscriverne e tracciarla, cosa che abbiamo fatto ed è il sistema con cui abbiamo sempre combattuto il Covid. Le volevo chiedere, Presidente Toti, se il bilancio del primo giorno di frontiere aperte fra le regioni ha individuato qualche falla, cioè qualcosa su cui intervenire. E poi il sistema sanitario ligure, che è stato ovviamente messo a dura prova come tutti gli altri del nord Italia, sarà in grado eventualmente di sostenere problematiche legate a turisti che dovessero sentirsi male e che evidentemente faranno riferimento agli ospedali in Liguria? Guardi, il sistema sanitario ligure è il sistema che per numero di abitanti è cresciuto di più durante l'emergenza Covid. Noi abbiamo triplicato le sale di rianimazione. Oggi, per fortuna, abbiamo, ieri sera, i dati di ieri sera, 7 persone in terapia intensiva relativamente al Covid in una regione che è arrivata ad avere 200 letti di terapia intensiva e abbiamo circa 160 ricoverati nei nostri ospedali quando ne siamo arrivati ad avere quasi 1.400. Questa imponente macchina è rimasta totalmente in piedi e resterà così anche nelle prossime settimane, ovviamente ove ce ne fosse bisogno, ma non crediamo che ne ce ne sia ovviamente bisogno, perché la capacità ormai di isolare i casi e di tracciare i cluster e di chiuderli, oltre al fatto che, come sapete, abbiamo tutta una serie di strutture anche per gli isolamenti dalla nave ospedale che resta nel porto di Genova pronta ad ospitare eventualmente persone e molto altro. Quindi da questo punto di vista la sanità ha fatto passi da giganti, semmai adesso si tratta, come dire, di tornare ad una sanità che dia risposte non solamente per il Covid e quindi una riconversione che sarà comunque lenta e faticosa perché lo sforzo è stato gigantesco, ma non ho paura di non avere posti letto. In Liguria nessuno è rimasto senza posto letto neppure nei momenti più cupi, quelli diciamo a cavallo del mese di aprile. Sulla Gronda, ne parlava poco fa Toti, avete avuto una qualche forma di risposta? Le ha chiesto risposte alla ministra De Micheli, ne ha ricevute? Ne ho chieste moltissime volte, ricevute pochissime volte, anche sabato scorso il ministro De Micheli era qua, abbiamo insieme inaugurato il cantiere dello scolmatore del Bisagno, che qualcuno ricorderà perché è il più grande cantiere contro il dissesto idrogeologico per evitare gli alluvioni di quel fiume Bisagno che tanti morti ha fatto a Genova. Anche i giornalisti hanno chiesto ovviamente conto della Gronda. La Gronda è un progetto pronto, la Gronda è un progetto approvato, la Gronda è un progetto per cui la mia regione ha già espropriato terreni, abitazioni e fabbriche per 50 milioni di euro per fare spazio al tracciato della Gronda. La Gronda è un progetto fermo perché è finanziato con i soldi di una concessione, quella di Società Autostrade, su cui anche ieri sera in tutta franchezza non ho capito quali siano le determinazioni del governo, perché il Premier Conte ha detto che sono le condizioni per ritirare la concessione, ma non si sa se è conveniente ritirare quella concessione. Io francamente non ho le carte che ha il Premier Conte, so che la Regione Liguria sta aspettando da 2 anni, anno in cui è crollato il Ponte Morandi, il progetto della Gronda è pronto, che il governo dica se Società Autostrade deve o non fare quella Gronda, oppure se non la fa Società Autostrade chi la fa al contrario, cosa che insomma aspettare 2 anni per un cantiere effettivamente pronto, per 4 miliardi di investimento, 2.500 posti di lavoro per i prossimi 6 anni nella mia regione, trovo che sia qualcosa che si scontra con quel nuovo patto sociale di cui si parla. È assolutamente un antipatto sociale, è qualcosa che rende incredibile qualsiasi altra parola. Senta Toti, non so con chi parli di più lei, se con Salvini o con Berlusconi, però sta di fatto che Berlusconi in più occasioni, anche dopo la manifestazione del centrodestra del 2 giugno, ha mandato segnali in direzione del senso di responsabilità e di una mano tesa al governo, e ovviamente Salvini non è su questa posizione. Lei come valuta sia la mano tesa di Berlusconi al governo che la posizione di Salvini senza mascherina in manifestazione? Vabbè, ora senza mascherina ho visto molte persone, come sempre ci sono due pesi e due misure in questo paese. Detto che ho combattuto il Covid, ho passato gli ultimi 4 mesi chiuso in un bunker a contare il numero dei morti e quindi ho poca... ho poco senso dell'umorismo per chi non rispetta le regole, ma detto questo ho visto manifestazioni il 25 aprile, ho visto manifestazioni anche solo nella mia città di persone purtroppo disperate che erano assembrate, quindi ora il processo alla manifestazione del centrodestra mi sembra francamente eccessivo. Quanto al senso di responsabilità, io faccio parte di una conferenza delle regioni che mi ha dimostrato moltissimo nei confronti di questo governo, però capisco anche chi, come i partiti del centrodestra, non essendoci una vera e propria unità nazionale, essendoci solo un accordo formale di consultazione tra i partiti e molto spesso di consultazione piuttosto così inconcludente, oggi si schierino all'opposizione. Insomma, non si può pretendere un'unità nazionale, un gabinetto di guerra, qualche cosa che richiami alla Gran Bretagna di Churchill, se non c'è una reale volontà a partire dalle forze di maggioranza di crearlo, e incolpare le opposizioni di scarsa voglia di dialogo. Questo non lo ritengo opportuno. Poi i toni di Berlusconi sono i toni di un leader moderato da sempre, i toni di Salvini sono toni più bruschi nel suo carattere, nella sua impostazione politica, ma penso che nella sostanza le posizioni abbiano una medesima posizione, quella della richiesta di una condivisione formale di scelta, sostanziale. Toti, mi faccia tornare sul suo territorio. Allora, stiamo facendo in queste ore molto cinema politico, per così dire, sulla questione dell'Austria, che ha deciso di non aprire i confini agli italiani fino al, almeno fino al 15 di giugno, poi vedremo. L'impressione è che però al vostro confine, quello di Ventimiglia, i francesi lo stiano facendo senza dirlo, nel senso che da quel che risulta la gendarmerie sta mettendo in atto un controllo uno per uno delle auto che entrano, o quasi, di fatto creando delle file chilometriche. Ci dà un punto su questo? Ma guarda, il confine di Ventimiglia è da sempre ormai un luogo un po' complesso dei rapporti con la Francia. Ricordiamoci il tema dei migranti con cui abbiamo convissuto negli ultimi 3 anni. È chiaro che i paesi europei oggi non abbiano riaperto Schengen esattamente come avrebbero dovuto fare. È chiaro anche che questa prudenza dei paesi europei mette in discussione il sistema europeo. Oggi vedo una grande retorica europeista, e io sono un europeista convinto, mi fa anche piacere, però vedo anche un'Europa che tutto sommato nel MES ha resuscitato un vecchio strumento che convince poco anche chi oggi lo sponsorizza. Sul Recovery Fund non sappiamo ancora nulla, i confini non si aprono. Quindi io tutta questa retorica lo dico con rammarico. Chiederà un intervento Toti al Ministero degli Esteri su Ventimiglia? Ma io chiedo un intervento al Ministro degli Esteri come cittadino italiano su tutti i nostri confini, non solo come Presidente della Liguria. Noi abbiamo un accordo, un trattato, quello di Schengen, che è parte integrante, fondante del patto europeo che ci tiene insieme. Se questo salta, l'Europa è solamente una parola retorica, perché la libera circolazione delle persone, prima ancora di quelle delle merci, è quello che contraddistingue l'Unione Europea. Se non c'è questo, non c'è niente. Se i paesi europei non si prendono il rischio di mettere in comune, non sono stati capaci di darsi politiche sanitarie comuni neanche nel momento dell'epidemia, io credo che la retorica europeista tornerà ad essere stucchevole molto presto. Grazie Giovanni Toti, a meno che Maria tu non abbia altre domande, però solo una cosa a chiudere. Fulminea, ci sì. Sarà il concerto in ricordo delle vittime del ponte Morandi? Abbiamo letto che c'è qualche perplessità, anche proteste forti da parte delle famiglie. Il concerto non l'abbiamo deciso in questa città, è una scelta di una delle grandi aziende che sta ricostruendo il ponte, voleva essere, credo, un regalo a questa città. Quindi ovviamente il sindaco sentirà i familiari delle vittime, sentirà il quartiere interessato, non abbiamo nessun interesse, come dire, a fare qualche cosa che non piaccia ai cittadini e soprattutto a quelle persone che hanno sofferto per il ponte. Io non trovo nulla di male a celebrare e anche a ricordare quelle persone facendo un concerto di musica che possa ricordare chi non c'è più e possa anche celebrare la capacità di una città di risorgere, ma se evidentemente qualcuno ne verrà turbata la sensibilità, non saremo certo noi a costringere la città ad ascoltare un concerto. Ripeto, non è un'iniziativa delle istituzioni locali, è un'iniziativa anche lodevole di un'azienda che ha costruito quel ponte, è un regalo alla città, ma se qualcuno per questo si dovesse sentire ferito, turbato, ci mancherebbe altro. Grazie Giovanni Toti, Presidente della Liguria, per essere stato con noi. Buona giornata a tutti. Una pausa e poi passiamo agli Stati Uniti. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, il miglior ERP per la tua impresa. Ventiquattro mattino. E apriamo a questo punto una finestra sugli Stati Uniti, su quello che sta succedendo, su quali possono essere le conseguenze politiche delle proteste che si stanno svolgendo in queste ore dopo la morte, dopo l'uccisione di George Floyd da parte di un agente a Minneapolis. La notte ha portato ancora proteste, 90 arresti a New York, coprifuoco violato e la tensione che cresce con il presidente americano Trump che chiede l'intervento dell'esercito e il Pentagono che sostanzialmente glielo rifiuta. Ugo Tramballi, che è voce nota ai Radio 24, è giornalista e adesso è senior advisor dell'ISPI, consigliere senior dell'ISPI. Buongiorno Ugo, benvenuto. Buongiorno. Ancora collaboratore del Sole. Ancora collaboratore del Sole 24 Ore. Guido Crosetto, presidente della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza, fondatore di Fratelli d'Italia. Crosetto, buongiorno, benvenuto, eccoci. Buongiorno a voi. Maria, prego. Vorrei fare la prima domanda al nostro collega Ugo Tramballi. Chi sono e perché fanno tanta paura a Trump gli Antifa, questo gruppo che non ha un capo, non ha un leader, ma movimenta molte delle proteste di queste ore? E queste proteste, che poi hanno un filone di vandalismo che nulla c'entra purtroppo con le proteste, ma è pure proprio vandalismo, quanto potranno influire su quella che sembrava una marcia trionfale di Trump verso la rielezione? Beh, gli Antifa potremmo dire che sono qualcosa di un pochettino più moderato dei Black Blocs. È un movimento nato e cresciuto anche a causa del, come dire, degli elementi fascistoidi dell'amministrazione Trump. Io però non sarei così convinto di quello appunto che hai appena detto, cioè che era una marcia trionfale di Donald Trump. Nel senso, anche al netto del Covid, al netto di tutto quello che è accaduto dopo, compresa la crisi economica che sta toccando pesantemente anche gli Stati Uniti, non credo che prima Trump avesse le elezioni in mano. Cioè, non dimentichiamo la grande capacità dinamica dell'elettorato americano, che dopo 8 anni di neoimperialismo di Bush, di Paul Wolfowitz, tutta quella gente che invase l'Iraq portando al disastro il Medio Oriente e anche l'immagine degli Stati Uniti, gli Stati Uniti americani hanno eletto non solo un presidente democratico, non solo liberal, ma per di più nero. Io credo che fosse già prima Donald Trump fosse in grande difficoltà. Quasi quattro anni fa è stato eletto come un voto di protesta, cioè tanta gente non è andata a votare, o tanta gente ha votato così per Trump contro Hillary Clinton, perché dicevano tanto poi Hillary vince lo stesso. Quindi un errore fatto 4 anni fa difficilmente molti americani lo ripeteranno. Poi le elezioni di midterm erano andate in maniera pesantemente contro Trump. Se i repubblicani erano stati capaci di tenere il Senato 2 anni fa, era solamente perché in quelle elezioni il terzo del Senato che si rinnovava era di stati molto profondamente repubblicani. Se no i repubblicani avrebbero perso anche la maggioranza in Senato. Quindi adesso sicuramente tutto questo renderà più, secondo me, ancora più difficile per Trump farsi eleggere. Detto questo, però, appunto, abbiamo visto in questi giorni quanto sia facile che siano gli Antifa, che siano le milizie neofasciste degli stati del sud o del nord, che siano agenti provocatori cinesi o russi, quanto sarà facile quando la campagna elettorale presidenziale entrerà nel vivo, si voterà il primo martedì di novembre, quindi ce n'è di tempo, quanto sia facile appunto far esplodere la società americana e andare al voto in una situazione simile a quella che abbiamo visto in questa ultima settimana. Guido Crosetto, come la legge lei? Insomma, qua un ascoltatore giustamente fa notare, dice, il vandalismo non nasce da niente, se non si contestualizza, dice, non si fa un bel lavoro, diciamo, abbiamo visto molti eccessi, è una protesta che in parte nasce, diciamo così, fuori dagli eccessi, Crosetto, nasce per delle motivazioni che oggettivamente ci sono, no? Beh, allora, a parte che chi conosce gli Stati Uniti sa che un sentimento, diciamo, non proprio positivo nei confronti della polizia statunitense c'è da parte di tutti i cittadini, bianchi, neri, gialli, cioè diciamo che i comportamenti della polizia non sono proprio irreprensibili e sono spesso contestati da tutti i gruppi etnici americani. Poi nel caso in particolare in centinaia di migliaia di casi simili, diciamo, la popolazione nera si è ritrovata di fronte ai poliziotti che non erano poliziotti violenti, erano dei poliziotti violenti e razzisti, per cui alla fine noi viviamo a sofferenza che si stratifica, alla fine esplode, ed esplode in manifestazioni che superano anche la ragione. Per cui io non sono così convinto però che queste manifestazioni e la conseguente reazione di Trump lo indeboliscano, perché io ho sempre visto due Americhe, quella colta libera e poi l'altra America, quella che il giorno che è scoppiato il Covid ha comprato ad esempio tutte le munizioni che c'erano nel mondo, con un aumento di munizioni di acquisto del 400% di armi e munizioni, che in questi giorni sta continuando a comprare. Cioè, ci sono due Americhe, una che non parla, che non va sui giornali, che non va sulle televisioni e che comunque si spaventa e in qualche modo si mobilita per Trump di fronte a questa violenza. Per cui ha ragione, sarà facilissimo provocare reazioni prima da una parte e dall'altra, prima delle elezioni, e probabilmente la battaglia sarà giocata anche sulla capacità di creare una psicosi da una parte e dall'altra nelle settimane precedenti alle elezioni per strappare quella che secondo me sarà rischia di essere una corsa sul filo di lana. Ecco, sono convinto che forse questi fatti hanno in qualche modo danno una chance in più a Trump. Maria? Allora, su questo vorrei insistere un po' con Crosetto, perché è vero, noi osservatori talvolta dimentichiamo che c'è una vastissima America che non legge i quotidiani, che guarda quasi esclusivamente i social e la TV e che su questo si fonda una sua opinione. A me sembra, Crosetto, che però questa volta le cose siano diverse rispetto a 4 anni fa. Io ricordo che 4 anni fa sono stata 2 mesi a Chicago a insegnare all'Institute of Politics dell'università di quella città e i miei colleghi americani non davano per niente una chance a Trump di avere la nomination per il Partito Repubblicano, cosa che invece gli è riuscita. Questa volta, la chiedo a lei che ha buoni rapporti con quella parte dell'America, il Partito Repubblicano sembra costretto formalmente a sostenere il presidente, ma sotto sotto, e abbiamo visto le dichiarazioni dell'ex presidente Bush ieri, sotto sotto lo detesta. Se potesse voterebbe Biden. Secondo lei si potrebbe arrivare persino a questa scelta sotterranea, che un pezzo di Partito Repubblicano che non sopporta Trump e non condivide le sue scelte alla fine possa sostenere surrettiziamente Joe Biden? La vedo difficile, perché alla fine si comporteranno, saranno come Montanelli, si tureranno il naso piuttosto di rafforzare i democratici, voteranno anche Trump. Lo odiano da sempre, lo odiano dal nomination, l'hanno odiato per tutti questi anni. Cioè, l'establishment repubblicano disprezza Trump, lo considera un problema per i repubblicani, non sono mai riusciti a inglobarlo, non sono mai riusciti a ricondurlo su una via per loro accettabile, per cui non voteranno per Biden perché non ci riescono, ma se Trump perdesse non sarebbero tristi, ecco. Diciamola così, perché è odiato dai repubblicani tanto quanto dai democratici, da molti repubblicani, diciamo, non da tutti. Parlo dell'establishment, della parte che conta, del Partito Repubblicano. Allora Davide ci scrive, dice, c'è chi paragona queste rivolte a quelle del 68, che però portarono all'elezione di un presidente repubblicano, perché portarono unità nelle comunità conservatrici. Come vedete, sono divisi gli ascoltatori sul vostro stesso asse, no? Ugo Tramballi e Guido Crosetto. Ugo, tu citavi l'elezione di Obama, no? È interessante il fatto che, nonostante il passaggio di Obama, questo tipo di tensioni non si siano in realtà mai sopite negli Stati Uniti. Cioè, il problema razziale è e continua ad essere un problema forte, molto sentito, i cui risultati vediamo adesso nelle strade degli Stati Uniti. Nel 1865, quando gli unionisti sconfissero i sudisti nella guerra civile, ovviamente negli stati del sud cambiarono le regole, cambiarono le leggi, imposero leggi appunto che liberavano appunto la minoranza nera, gli schiavi, e davano loro diritto di cittadinanza. Immediatamente dopo gli stati del sud crearono le leggi cosiddette Jim Crow, che era una specie di macchietta nera, per ripristinare completamente appunto la segregazione, cosa che è andata avanti fino alle leggi di Lyndon Johnson alla fine degli anni 60. Ma nonostante questo il segregazionismo è continuato sotto altre forme, un segregazionismo molto forte. Certo, questo è l'elemento forte, divisivo degli Stati Uniti. È vero che le manifestazioni più andranno avanti, più creeranno le stesse condizioni appunto che si crearono nel 1968. Teniamo conto che allora c'era anche una guerra del Vietnam che divideva pesantemente la società americana, non era solo una questione razziale, sebbene poi appunto vennero uccisi appunto Martin Luther King e immediatamente dopo Bob Kennedy, segno appunto che c'era comunque un deep state che aveva fatto le sue decisioni. Ha ragione anche Crosetto quando dice che noi teniamo sempre conto, quando analizziamo l'America, della East e della West Coast, ma non di tutto quello che c'è in mezzo. E chi conosce quello che c'è in mezzo, appunto, in qualche modo la prova pittoresco, ma anche guarda con preoccupazione negli Stati Uniti. Però non dimentichiamo che il Presidente degli Stati Uniti ogni 4 anni viene eletto, se escludiamo quelli che non vanno a votare, che sono quasi circa il 50% dell'elettorato, se escludiamo quelli che hanno votato per l'altro Presidente, in realtà ogni volta il Presidente degli Stati Uniti viene eletto per circa dal 25-27% dei votanti, degli aventi diritto al voto, quindi quelli delle milizie, quelli che infatti mentre noi in Europa facevamo la coda per comprare la carta igienica, loro andavano a fare davanti all'armeria a fare la coda per comprare le armi, sono quelli che comunque non vanno a votare. L'unica volta che andarono a votare fu quando un consigliere intelligente, furbo, di George Bush decide di mettere in sé, quando si votò contro per il secondo mandato contro John Kerry, decisero di proporre anche un referendum sull'aborto, e quindi ovviamente tutti gli ultraconservatori cristiani andarono a votare, già che c'erano, votarono anche per George Bush. Ecco, quindi è sempre molto difficile stabilire quale sia la dinamica elettorale. Anche 4 anni fa, quando vinse Trump, il Washington Post fece un bellissimo grafico per vedere appunto dei picchi di voto, no? E anche le città del sud, non so, Phoenix, Arizona, Houston, in tutte le metropoli comunque la maggioranza degli americani, anche nel centro degli Stati Uniti, aveva comunque votato democratico, nonostante Hillary Clinton fosse profondamente invisa, profondamente antipatica. Quindi certo, se però le manifestazioni continueranno, tutto quanto potrebbe essere messo in gioco. Joe Biden certamente non è un candidato, non è Barack Obama, però forse quello che l'America, dopo 4 anni di questo presidente sempre più divisivo, forse desidera, cioè un presidente che non sia un genio, ma che sia uno che rimette le cose in chiaro, che pone gli Stati Uniti al centro, per esempio, del sistema di alleanze che gli Stati Uniti stessi avevano creato e che Barack Obama sta smontando, Trump sta smontando. Maria. A proposito delle relazioni degli Stati Uniti con l'Europa, Trump rischia di accendere una nuova miccia, perché in quanto padrone di casa del G7 potrebbe chiedere a Putin di entrare alla Russia, no? Di far parte del prossimo appuntamento del G7, che diventa una complicazione geopoliticamente seria, e diventa una complicazione anche per noi, perché già si sta delineando, no, il fronte dei favorevoli e il fronte dei contrari. Come si muoverà secondo lei l'Italia se si dovesse appunto decidere una volta per tutte da che parte stare, con Trump che invita Putin, oppure con chi dice no, non ci vado al G7 se c'è Putin? Domanda per chi? Maria, per chi? Per Crosetto, ma per tutti e due, se volete. Prego, Crosetto. Prego, prego, prego, prego. No, decidetevi, decidetevi, allora, però, perché sennò qua stanno bene. Io credo che comunque, a dispetto della brutalità del regime russo, a dispetto delle ambizioni sovietiche, cioè chiedo scusa, ho fatto corrispondente in quegli anni, le ambizioni sovietiche non è male, vai Ugo, vai. Esatto, faccio fatica a distinguere la Russia di Putin dalla Russia di Stalin, però comunque io credo che non sarebbe del tutto sbagliato invitare, non reinserire Putin in un G8 come era una volta, ma sicuramente aprire il dibattito a Putin, secondo me credo sia giusto e sia quasi doveroso, pur salvaguardando tutto quello che è stato deciso di, contro per esempio l'occupazione militare della Crimea. Io credo che il problema sia principalmente, più che quello russo, sia la Cina, il problema di oggi e del futuro. E per esempio mi viene in mente di pensare come sia possibile che il nostro ministro degli esteri, che da ministro con un altro dicastero l'anno scorso aveva promosso l'Italia come membro della Via della Seta, questa grande iniziativa economica, commerciale, sì, ma anche geopolitica cinese, noi siamo l'unico paese del G7 ad avere formalmente aderito a Obor, appunto alla Via della Seta. La Francia, che non ha aderito, ha fatto molti più affari di noi, comunque con la Cina bisogna fare affari. Mi chiedo se per esempio anche l'Italia non debba cambiare un pochettino le sue opinioni sulla Cina, perché la minaccia sotto tanti aspetti, più di quella russa, che hanno una mano davanti e l'altra di dietro, perché la crisi economica russa è potente, la minaccia sia più quella cinese di quella russa. Di quella russa. Crosetto, abbiamo veramente 20 secondi, rapidissimo. Guardi, io trovo che la cosa più stupida che l'Occidente potrebbe fare è spingere la Russia verso la Cina. Il problema nei prossimi anni sarà il rapporto con la Cina, regalargli anche la Russia sarebbe stupido. Mi sembra concordia piena tra Tramballi e Crosetto su questo fronte. Grazie ad entrambi, Ugo Tramballi, Guido Crosetto. Maria, ci risentiamo domani alle 8:20. A domani, grazie a tutti, ciao. Con tutti gli altri ascoltatori alle 6:30 naturalmente, ciao.